Minestre asciutte e di magro. Cinquantacinque. Tortelli. Ricotta o ravigiuolo, oppure l'una e l'altro uniti, grammi 200. Parmigiano, grammi 40. Uova intere, numero 1 e un rosso. Odore di noce moscata e di spezie, un pizzico di sale, un po' di prezzemolo tritato. Si chiudono in una sfoglia fatta come quella dei cappelletti e tagliata con un disco rotondo alquanto più grande. Io mi servo del disco numero 195. Si possono lasciare con la prima piegatura a mezzaluna, ma è da preferirsi la forma dei cappelletti. Si cuociono nell'acqua salata a sufficienza, si levano asciutti e si condiscono a cacio e burro. Con questa dose ne otterrete 24 o 25 e possono bastare, essendo grandi, per 3 persone.